Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Con un anticipo di 24 ore parliamo della Giornata Mondiale del Cancro, che si celebrerà in tutto il mondo domani. È un'occasione questa per incoraggiare alla prevenzione, alla diagnosi precoce, per parlare anche e soprattutto di nuove opportunità di cura, dei risultati a cui è arrivata la ricerca. Una giornata, insomma, per fare un bilancio delle sfide vinte e di quelle che attualmente si stanno affrontando. Ciascuno di noi deve fare la sua parte, questo è chiaro, ma agendo insieme possiamo fare di più, come recita proprio lo slogan della giornata di quest'anno: io posso, noi possiamo. Allora, io posso, attraverso l'informazione, diventare consapevole e quindi trasformarmi in un soggetto attivo di prevenzione. Noi possiamo tutti insieme sostenere la ricerca, alimentare e nutrire una cultura della prevenzione, impegnarci per fare in modo che tutti ricevano le migliori terapie disponibili e quindi migliorare la qualità di vita dei malati e delle loro famiglie. Io vi aspetto quindi all'800 24 00 24, il nostro numero verde a disposizione per raccogliere naturalmente le vostre domande e soprattutto le vostre storie. Tu commenti una notizia con un anticipo di 24 ore, io invece ne commento un'altra che è arrivata ieri nel tardo pomeriggio. Non so come possiamo stare più sull'attualità di così, Nicoletta. Ci proviamo. Salti mortali, trapeziste, possiamo definirci in ogni modo, ma insomma parliamo di questa notizia, dicevamo, arrivata ieri nel tardo pomeriggio, che forse non ci aspettavamo di tornare a parlarne e di farlo in questi termini. A 14 anni dalla bancarotta argentina del 2001, oggi torniamo sui famigerati Tango Bond, una bancarotta che molti ricorderanno purtroppo molto bene, coinvolse all'epoca 450.000 risparmiatori italiani che avevano tra i loro risparmi in portafoglio obbligazioni argentine per un valore di 14 miliardi di dollari. Per 50.000 di questi l'Argentina è pronta a restituire il 150% del capitale inizialmente investito e vince così la sua battaglia la task force argentina guidata da Nicola Stock, che promette rimborsi arriveranno entro maggio-giugno. Oggi ricostruiamo le tappe salienti di questa storia di risparmio tradito. Cosa è successo in questi anni a questi 450.000 risparmiatori? Chi sono quelli che avranno diritto a questa restituzione totale del capitale? Cosa succede a tutti gli altri? Molti di questi hanno aderito alle due ristrutturazioni del debito argentino fatte nel 2005 e nel 2010. E che scenario nuovo si apre? Per tutti gli interessati, numero verde a vostra disposizione, 800 24 00 24, il numero verde per voi. Nicola Stock sarà con noi dalle 11.20. Oggi parliamo di cancro, è una parola che a pronunciarla mette ancora paura, ma noi oggi vogliamo proprio squarciare questo velo di paura, vogliamo parlarne, vogliamo parlare di cancro, perché su questa malattia ci sono ancora tanti, troppi luoghi comuni, ma soprattutto perché su questa malattia le conoscenze sono aumentate e questo cambia e questo fa la differenza. Ma che cos'è il cancro? Per cancro, tumore, malattia neoplastica, si intende un insieme di circa 200 malattie caratterizzate dalla crescita cellulare incontrollata, svincolata dai normali meccanismi di controllo dell'organismo e identificate come tali dalla classificazione internazionale delle malattie per l'oncologia. Così si legge sull'opuscolo i numeri del cancro in Italia nel 2015 dell'AIOM, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica. E proprio da questa definizione partiamo oggi per invitarvi a raccontare che cos'è invece per voi il cancro. Una malattia evitabile? Una fatalità? Un evento a cui siete sopravvissuti? Un evento invece che vi ha rubato un amico, un compagno, un fratello, un figlio? Oggi ne parliamo. 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo il grande piacere di avere il professor Armando Santoro. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Direttore dell'Humanitas Cancer Center di Humanitas e soprattutto ordinario di oncologia presso l'Università Humanitas. Professore, il concetto di male incurabile appartiene al passato e non dovrebbe neppure più essere usata questa espressione per definire il cancro, perché seppure ancora tanti sono i pazienti che non ce la fanno e i trionfalismi vanno assolutamente banditi, la buona notizia è che oggi avete a disposizione i mezzi per poter vincere la sfida contro questa malattia. Sono assolutamente d'accordo e fortunatamente il termine male incurabile viene sempre meno utilizzato anche dalla stampa, anche dai media, che spesso ne facevano un uso direi spropositato. Oggi le probabilità di guarire da una patologia oncologica, da un tumore, sono estremamente più elevate rispetto già a soli 10 anni fa, e anche nei casi in cui non si riesce a ottenere la guarigione c'è comunque un'altissima probabilità di ottenere una cronicizzazione, una lunga sopravvivenza. Quindi sicuramente lo scenario ha subito una rivoluzione nell'arco degli ultimi 10-15 anni, e lo dimostrano anche dei dati concreti, di numeri di pazienti che hanno avuto un'esperienza di cancro e che conducono una vita direi normale o quasi normale. Erano 15 anni fa meno di 1,5 milioni, oggi sono fondamentalmente 3 milioni, e si pensa, se si continua con questo ritmo di miglioramento dei risultati, ad avere nel 2020 oltre 4,5 milioni di pazienti guariti dal cancro. Ecco, quindi professore, grazie ai tanti passi avanti compiuti nella lotta al cancro, aumentano gli italiani che hanno avuto la malattia e l'hanno sconfitta o cronicizzata. Ci aiuta a capire la differenza tra sopravvivenza e guarigione? Ma senz'altro, sono due concetti che sono abbastanza diversi. Fondamentalmente in oncologia stiamo ottenendo un miglioramento dell'uno e dell'altro, cioè della sopravvivenza e della guarigione, ma è chiaro che l'obiettivo prevalente è quello della guarigione, e i numeri parlano chiaro rispetto a un incremento veramente significativo dei pazienti guariti. In questo agiscono tanti fattori, ma soprattutto sulla guarigione agisce una diagnosi sempre più precoce. In fondo, nella quasi generalità dei casi, una diagnosi precoce di un processo tumorale comporta la guarigione spesso col solo intervento chirurgico, quindi questo è fondamentale. Per quanto riguarda la sopravvivenza, che vuol dire avere una lunga vita ma anche una malattia cronicizzata, col bisogno di tanto in tanto di dover magari riprendere le terapie, e questo è più dovuto al miglioramento dei farmaci che si è registrato in quest'ultimo ventennio. Di cui naturalmente parleremo di ricerca, parleremo di terapia, vogliamo raccogliere naturalmente anche le vostre testimonianze. Vi abbiamo lanciato la sfida partendo proprio dalla definizione del cancro che abbiamo riportato dell'IOM, per invitarvi a raccontare che cos'è per voi il cancro. 800 24 00 24. Professor Santoro, lei ha sottolineato quanto la diagnosi precoce sia fondamentale anche per affrontare in maniera migliore la malattia e anche vincere questa battaglia. Ma quando parliamo di diagnosi precoce, a che cosa ci riferiamo esattamente? Perché spesso scoprire di avere un tumore è come un evento che è proprio come un fulmine a ciel sereno. Si fa un controllo, magari si arriva un po' di stanchezza, qualche esame che non torna ed ecco la diagnosi. Ci sono dei segnali che potrebbero crearci il sospetto? Ma dei segnali ci sono, soprattutto però dei segnali molto, molto vaghi. Ad esempio, la scoperta da parte della donna facendo l'autopalpazione al seno di un nodulo alla mammella, o la scoperta di una ghiandola in qualcuno, di un linfonodo in qualcuno delle sedi classiche, sono il collo, l'ascella, l'inguine. Però non bisogna dimenticare che spesso le patologie tumorali, almeno nella fase iniziale, nella fase precoce, sono assolutamente asintomatiche. Quindi quando parlo di attenzione intendo ad esempio dire aderire ai processi, a tutte quelle che sono le campagne di screening, laddove sono dimostrate che servono, quindi vuol dire in particolare mammella, cervice uterina, colon. È ovvio che se facciamo lo screening vuol dire che noi non abbiamo sintomi in quel momento, diciamo a un paziente che non è paziente, che è una persona sana in quel momento, fai un certo tipo di accertamenti perché vogliamo eventualmente identificare un processo tumorale nella sua fase estremamente iniziale, e questo è un grandissimo vantaggio in termini di riduzione dell'aggressività terapeutica e anche vantaggio in termini di guarigione complessiva. Professor Santoro, vorrei che lei ci aiutasse a capire, quando si parla di familiarità, e quindi nella nostra famiglia ci sono stati casi di tumore alla mammella oppure un tumore polmonare, ci sono stati dei tumori, parlo al plurale, tanto che si invitano i familiari delle persone che sono state colpite dai tumori a anticipare alcuni controlli. Ci spiega esattamente come funziona? Questo è vero soltanto per alcuni tipi di tumore. In realtà, se in una famiglia c'è magari una situazione di patologie tumorali diverse, non vuol dire che c'è una predisposizione un'abitudine condivisa a fumare, che è il principale fattore di rischio per un tumore polmonare. Sono pochi in realtà i tumori per i quali c'è una certa familiarità o addirittura ereditarietà. Se parliamo di forme per le quali ci può essere un'ereditarietà, abbiamo di base una piccola quota di tumori della mammella, il caso di Angelina Jolie ha fatto un po' scalpore, comunque c'è una piccola percentuale di tumori della mammella che ha una particolare mutazione BRCA1/2, e sappiamo che le donne che hanno questa mutazione hanno un rischio elevatissimo di poter sviluppare un tumore, perché è un gene che si trasmette, un gene ereditario. Abbiamo sempre come forma anche di malattia ereditaria un raro tumore della tiroide, che è il carcinoma midollare, un raro tipo di tumore della tiroide, e un rarissimo tumore dell'occhio che è il retinoblastoma. Direi che altri tumori chiaramente ereditari non ce ne sono. Poi abbiamo dei tumori a cui c'è una familiarità, cioè se nella famiglia hai avuto un caso di quel tipo di tumore hai un maggior rischio di poterlo sviluppare. Certo. Direi che questo è più frequente per i tumori del colon, e una certa familiarità è anche riportata per il tumore della prostata. Professor Santoro, ci fermiamo per le informazioni sul traffico, tra poco naturalmente linea e ascolto anche a chi sta componendo il nostro numero verde per raccontare le storie, per chiedere informazioni, delucidazioni, spiegazioni al professor Santoro e anche aggiornamenti. A tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi un grande esperto, il professor Armando Santoro, direttore dell'Humanitas Cancer Center e ordinario di oncologia all'Università Humanitas. Stiamo parlando di prevenzione, di diagnosi precoce, stiamo parlando anche dei risultati, dei successi ottenuti dalla ricerca, delle nuove terapie e delle nuove conoscenze che sono a disposizione dei medici riguardo proprio al tumore. Lo facciamo oggi in occasione della Giornata Mondiale del Cancro, che si celebrerà, lo ricordiamo, domani. L'obiettivo è quello di informare sempre più persone sui giusti comportamenti da tenere per cercare di evitare l'insorgenza di queste patologie. Per intervenire in diretta lo state già facendo, 800 24 00 24. Professor Santoro, parliamo di tumore, in realtà dovremmo usare il plurale, perché i tumori possono essere diversi tra loro anche quando colpiscono lo stesso organo, e proprio questa diversità porta a trattamenti differenti. Assolutamente sì, i tumori sono tantissimi, ma non solo il tumore in rapporto all'organo in cui nasce, cioè polmone, stomaco, colon, ma anche nella stessa sede, come giustamente segnalava lei prima. Noi oggi, conoscendo sempre più a fondo le caratteristiche del tumore, non solo quello che ci consente di fare la diagnosi, cioè la biopsia, abbiamo adenocarcinoma polmonare, ma oggi abbiamo la possibilità di studiare questo tumore dai suoi aspetti tipo genetico, molecolare, in caratteristiche più profonde, più che stanno alla base del processo di sviluppo del tumore, e vediamo come nella stessa sede ci possono essere le forme tumorali molto diverse, apparentemente definite con la stessa terminologia, e che richiedono approcci terapeutici completamente diversi. Se posso fare un esempio classico, è il tumore polmonare. Oggi riusciamo a distinguere il tumore polmonare del fumatore e quello del non fumatore. Nel non fumatore riusciamo ad evidenziare delle mutazioni, delle alterazioni genetiche specifiche che ci consentono di fare dei trattamenti, delle terapie mirate contro queste mutazioni particolari, ottenendo dei risultati assolutamente superiori a quelli, ad esempio, che si ottengono con la chemioterapia. 800 24 00 24, Deborah, i nostri ascoltatori stanno chiamando e direi di dare cominciare spazio. A dar loro spazio, hai ragione. Cominciamo con Pierangelo da Torino, che si è messo in collegamento con noi per primo, per cui ha la precedenza. Pierangelo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Sì, ci dica. Allora, ho 61 anni, sono affetto da mieloma So che è un tumore non curabile, vorrei sapere aspettative di vita e se devo fare uno screening per i miei figli. Grazie, buongiorno. Grazie, grazie Pierangelo. Professor Santoro. Il mieloma, per i non addetti ai lavori, grazie, è un tumore del sangue fondamentalmente, delle plasmacellule del sangue. È un tumore in aumento nella popolazione occidentale perché è un tumore degli adulti anziani, quindi aumentando l'età media della popolazione, come per tante altre forme tumorali, ad esempio la prostata, per fare l'esempio più classico, è una patologia in incremento, oggi il secondo per incidenza, il secondo tumore ematologico. È una malattia, come diceva l'ascoltatore Pierangelo, non è, oggi non possiamo definire guaribile. Però è una malattia nel quale negli ultimi 10 anni veramente è stata fatta una rivoluzione, si è riusciti a quintuplicare i dati sulla sopravvivenza media di questa malattia, oggi abbiamo il 70-80% dei pazienti che riesce a condurre una vita estremamente lunga, supera i 5 anni, magari dovendo riprendere di tanto in tanto dei trattamenti, ma con una possibilità comunque di una lunga vita e con una qualità complessivamente buona, perché anche un tumore che in genere si cura con nuovi farmaci biologici con un profilo di tossicità minore rispetto ai precedenti trattamenti chemioterapici. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, se deve fare qualcosa per i figli, assolutamente no, è una malattia che non ha niente di ereditario, quindi i ragazzi lasciamoli in pace. E allora andiamo da Ugo che ci chiama sempre da Torino. Benvenuto Ugo, grazie. Buongiorno, grazie per la trasmissione, grazie per avermi chiamato. Io sono stato, e devo dire grazie alla sanità italiana, sono stato quando avevo 60 anni chiamato per lo screening prevenzione serena, mi hanno trovato un cancro al retto, al colon retto, più vicino a 10 centimetri dal retto, che per fortuna ho operato, non ho avuto bisogno di nulla e dopo sono stato operato nel 2008 e tutto è andato bene. Nel mese di marzo scorso ho avuto un incidente sugli sci, sono caduto, spalla da operare, mi hanno fatto nel mese di gennaio adesso delle lastre e hanno scoperto che ho un qualche cosa sulla cima del lobo del polmone destro. Domani devo andare a fare un ago aspirato perché con una broncoscopia non riescono ad arrivare nel punto, quindi, e così siccome dico dopo 6 anni mi ritocca, volevo sapere, io ho smesso di fumare nel 2005 tra parentesi. Sì, quindi di nuovo Ugo dice dopo 6 anni mi ritocca, professor Santoro, non è detto. Non è detto. Allora, ecco, quindi questo è l'augurio che facciamo a Ugo e lo penseremo domani. Qui ci sono un paio di aspetti che trovo interessanti. Beh, prima intanto il grazie per la sanità, in un tempo in cui si ricerca a tutti i costi la mala sanità, avere qualcuno, un ascoltatore che commenta positivamente fa enorme piacere. Sicuramente l'aspetto dello screening è importante, lo ha ribadito lui con la sua diagnosi precoce, quindi un intervento iniziale che sembrerebbe aver risolto almeno per 6 anni il problema. Ora è difficile dire di che cosa si tratta in questo momento. C'è qualche caso di recidiva dopo il 5° anno, sono abbastanza rari. Se noi valutiamo in una forma del colon del retto il rischio che si ripresenti la malattia dopo il 4° o 5° anno, veramente siamo a percentuali inferiori all'1%, quindi è un evento estremamente raro, tant'è vero che i 5 anni vengono considerati come un cut-off, come una linea di demarcazione per dire dopo il 5° anno si è guariti, almeno in questo tipo di tumore. Giustamente il signore deve fare una biopsia perché il dubbio potrebbe anche essere che questo non sia una recidiva del vecchio tumore, ma che sia un nuovo tumore. Ho sentito che ha detto ho smesso di fumare, non ricordo la data esatta, potrebbe anche però essere o niente, o una recidiva del vecchio tumore del colon, ma potrebbe essere anche una nuova forma, magari un tumore primitivo nel polmone, nel qual caso, se è veramente una forma così limitata come descrive, un intervento chirurgico potrebbe anch'esso essere risolutivo. Professor Santoro, affronteremo naturalmente anche il ruolo dell'alimentazione che abbiamo sottolineato più volte, è determinante, il 30-40% dei tumori potrebbe essere evitata proprio con una alimentazione un pochino più attenta, ma questo vale per tutti i tipi di tumore o per alcuni in particolare? Abbiamo ad esempio con l'intervento di Pierangelo parlato del tumore del al colon retto. Professor Santoro, in quali tumori l'alimentazione può fare la differenza? Direi che per quanto riguarda l'alimentazione in particolare, prevalentemente i tumori del tratto gastroenterico, quindi possiamo parlare di esofago, stomaco, colon, lo stesso pancreas, sono dei sedi dove maggiormente, un po' anche sulla mammella, sul carcinoma mammario è indicata una certa correlazione con aspetti di tipo alimentare, ad esempio l'abuso dei grassi potrebbe essere un fattore favorente, però secondo me il discorso va a 360 gradi, oggi con uno stile di vita adeguato, che vuol dire attività sportiva, movimento, una dieta attenta, non fumare. Eccolo, non fumare, ne abbiamo proprio parlato ieri. Professor Santoro, e l'aria che respiriamo, quanto l'inquinamento impatta sulla nostra salute? Che relazione c'è tra inquinamento ed insorgenza di alcuni tipi di tumore? Ne parleremo nella seconda parte di Cuore Denari, leggeremo anche una mail che ci suggerisce Deborah. Adesso linea al nostro GR, il professor Santoro rimane per le vostre domande, a tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Cuore e denari. Eccoci qua, seconda parte di Cuore Denari. Io posso, noi possiamo, questo è lo slogan della giornata mondiale del cancro, perché ciascuno di noi deve fare la sua parte e tutti insieme possiamo fare qualcosa di più. In linea con noi il professor Armando Santoro, pronto a rispondere alle vostre domande, sono davvero tante. Professor Santoro, ci stanno scrivendo e chiamando persone che hanno incontrato la malattia, che chiedono a lei delle informazioni, delle delucidazioni, dei consigli. Sono tante le persone che ci scrivono, mail, sms, che ci raccontano di aver avuto dei casi in famiglia e quindi vogliono sapere qual è il modo migliore per fare prevenzione, e naturalmente vorremmo anche sapere da lei quali sono le novità rispetto al passato. 800 24 00 24, non so se faremo in tempo a toccare tutti questi argomenti, naturalmente inviteremo nuovamente il professor Santoro, che è molto apprezzato anche dai nostri ascoltatori. Professore, questo vogliamo dirglielo subito. Allora, andiamo agli ascoltatori. Davide da Milano, poi leggiamo le mail di Daniela ed Anna. Allora, Davide, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Io chiedevo solamente una cortesia. Ho 44 anni, ho fumato per 30 anni, ho smesso da circa un anno. E colgo l'occasione per chiedere al professor Santoro che tipo di esame in questo caso andrebbe effettuato in via preventiva. Direi che sicuramente ha fatto una cosa eccellente, ha smesso di fumare, questo è l'aspetto più importante per cercare di ridurre il rischio di avere un tumore del polmone. Per quanto riguarda i controlli che deve fare, c'è un certo dibattito nel mondo sull'utilità della TAC spirale, di un tipo particolare di TAC senza metodo di contrasto, a scopo di diagnosi precoce di una forma polmonare. Io non sono convinto in maniera completa della validità di questa metodica, comunque in una persona che ha fumato per un lungo periodo direi che magari un controllo con una TAC spirale potrebbe essere una cosa giustificata. Da ripetere quindi poi? Da ripetere, anche lì i dati sono molto contraddittori, però sì, diciamo che ogni 2-3 anni potrebbe valere la pena ripetere un esame del genere. Professor Santoro, prima di dare ancora la linea ai nostri ascoltatori, prima del GR ci eravamo lasciati con chiedendole se c'era e quale, se l'avete quantificata e misurata, una relazione tra l'inquinamento e l'insorgenza di alcuni tipi di tumore. Adesso abbiamo parlato del tumore al polmone, sappiamo che l'inquinamento inquinamento nuoce non solo al nostro apparato respiratorio, danneggia anche il nostro cuore, ne abbiamo fatte intere puntate. Lei che cosa ci racconta dal punto di vista oncologico? Ci sono delle evidenze? Direi che delle evidenze ci sono e direi che anche il buon senso ci dice meglio vivere in un ambiente sano con un basso livello di inquinamento che non in un ambiente inquinato. Le evidenze ci sono, ma da certi punti di vista meno di quanto ci si potrebbe aspettare. Ad esempio, se per inquinamento parliamo di amianto, è innegabile, la storia di Casale Monferrato, di altri posti lo insegna, che l'esposizione all'amianto è direttamente correlata allo sviluppo di un raro tumore della pleura che si chiama mesotelioma. Per quanto riguarda invece l'inquinamento atmosferico ambientale, dei dati così chiari, così netti, che dimostrino il danno o l'aumentata incidenza di patologie oncologiche non ci sono. Di fatto però credo che soprattutto se c'è un'associazione di più fattori, ad esempio un fumatore, se sta in un ambiente inquinato, certo, sicuramente c'è un'esasperazione di questo rischio. Quindi inviterei a condurre una vita o a vivere possibilmente negli ambienti meno inquinati possibili. Vuoi leggere la mail di molto volentieri. Anna. Allora, Anna ci scrive: ho avuto un tumore all'ovaio al seno nel 2000 e nel 2001. Mi continuano a prescrivere decine e decine di analisi, markers vari, molti sicuramente, sostiene Anna, inutili secondo il suo giudizio. Allora, vuole sapere quali controlli rigorosi deve fare e con quali intervalli di tempo, professor Santoro. Ecco, non so se abbiamo il tempo per rispondere a questa domanda, perché? Che ha sfaccettature varie. Ah. Innanzitutto la signora dice aver avuto, se non capito male, un tumore alla mammella e all'ovaio. Sì, sì. In un anno di differenza, nel 2000 e 2001. Direi che il primo esame che farei, è, vista la concomitanza di queste due lesioni, capire se c'è un rischio di ereditarietà, e quindi farei il test del BRCA, perché le mutazioni di cui parlavo prima, BRCA1 e 2, sono spesso associate al tumore della mammella e al tumore dell'ovaio. Infatti una persona abbia la doppia neoplasia può rappresentare una condizione che giustifica un'indagine genetica per vedere se presenta o meno questa mutazione. Per quanto riguarda gli esami post-trattamento, io sono convinto che probabilmente l'ascoltatrice ha ragione, ne sta facendo troppo, perché c'è un atteggiamento generale, anche nella classe oncologica, nella classe medica in genere, a caricare questi pazienti anche a distanza di diversi anni dalla terapia iniziale, quindi quando li possiamo definire guariti, di tutta una serie di accertamenti che nella maggior parte dei casi sono inutili. Fondamentalmente, se sono passati 4-5 anni dalla diagnosi iniziale, direi che un controllo di minimo, un follow-up di minimo con un'ecografia annuale, qualche esame del sangue, sui marker se si discute all'infinito sulla loro utilità o forse più sul fatto che provochino stress, ecco, potrebbe essere comunque sufficiente senza andare in esami più sofisticati che spesso sono assolutamente inutili e anzi magari sottopongono a delle radiazioni superflue. A proposito di Casale Monferrato, ci scrive un ascoltatore, ci sono degli esami preventivi per il mesotelioma? Purtroppo no, sono stati fatti anche degli studi in popolazioni a rischio, come ad esempio persone che lavorano in situazioni in porti, il porti marittimi sono un'altra delle sedi ad alto rischio per varie ragioni su cui non possiamo soffermarci. Di fatto delle sperimentazioni sono state condotte sulla possibilità di un vantaggio di una diagnosi precoce di mesotelioma con risultati fondamentalmente negativi. Quindi non c'è indicazione fondamentalmente a fare uno screening in contatto con altro. Andiamo a Giuliana dalla provincia di Genova e intanto che la salutiamo, professore, vorrei leggerle un messaggio che è arrivato. Questo è per lei, ma per tutti i nostri ascoltatori, gli ascoltatori di Cuore Denari. 17 anni fa sono stato operato, mi hanno tolto un polmone, il professor Santoro mi ha fatto la chemio, io sto bene, faccio una buona vita e vorrei dirlo al mondo intero. E quindi noi leggiamo il suo messaggio, perché non c'è tempo, gentilmente ci ha lasciato anche il suo cellulare, ma il tempo sta scappando e non abbiamo possibilità di chiamarla, ma intanto la ringraziamo per aver mandato questo messaggio che è assolutamente rassicurante. Giuliana, buongiorno dalla provincia di Genova. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie di avermi chiamato e buona giornata a tutti. Volevo fare questa domanda al professore. Io sono affetta da un carcinoma, me ne sono resa conto da 3 mesi, carcinoma in più infiltrante, è detto esattamente così, duttale infiltrante B5 50 mm. Allo stato attuale sono pre-intervento e sto prendendo Femara 2.5. Delle ghiandole e della situazione mammaria me ne sono resa conto da sola perché si è sviluppata improvvisamente. Ora ho una sola preoccupazione che mi è proprio costante. Si può spostare anche all'altra mammella nonostante io sia in terapia con Femara? Allora, prima cercherei di tranquillizzarla sul fatto che comunque oggi il tumore alla mammella, anche se il suo caso non sembra un caso inizialissimo, comunque è guaribile in quasi il 90% dei casi. Quindi facendo le terapie adeguate credo che possa stare sufficientemente tranquilla e vedere il futuro con una certa serenità. Per quanto riguarda il problema della mammella controlaterale, allora non mi porrei questo problema nel breve termine, non solo perché in terapia, perché comunque è relativamente raro il tumore bilaterale, però è vero che in chi ha avuto un tumore alla mammella c'è un rischio aumentato, che non vuol dire la certezza, ma soltanto un leggero aumento del rischio di avere un tumore, di poter avere un tumore alla mammella controlaterale. E questa è una delle ragioni per cui le donne che hanno avuto un tumore alla mammella devono fare ogni anno un controllo con mammografia. Professor Santoro, io ho avuto delle amiche che si sono ammalate di tumore al seno, al colon, e ho vissuto con alcune loro proprio passo passo la loro malattia. Alcune ascoltatrici hanno voluto raccontarmi la loro esperienza proprio come si fa ad un'amica, e devo dire che mi hanno fatto un regalo grande. Io ho conservato le loro mail che ho letto e riletto nel tempo, alcune le conosco anche a memoria. Professore, lei con queste storie divide la sua vita, no? Perché un oncologo accompagna, si mette a fianco della persona dal momento della diagnosi al trattamento, ai controlli che nel tempo si diradano ma rimangono, e anche alla paura, no? Di rincontrare di nuovo il tumore. Allora io, in conclusione di questa puntata, chiedo al professor Santoro, come uomo e come oncologo, di riassumere questa puntata con due messaggi, no? Sì, io capisco, l'oncologo e l'uomo naturalmente sono la stessa persona, ma vorrei proprio due letture differenti. Direi che due messaggi importanti che mi sentirei di dare: il primo è che il tumore è una malattia guaribile in una grande percentuale di casi, e quindi l'approccio dinanzi a una diagnosi di tumore deve essere un approccio positivo. Il secondo, che è quello della partecipazione del medico, io penso che una grande parte del successo e anche dei risultati positivi dei trattamenti dipende da una grande capacità di comunicazione, di scambio di informazione fra medico e paziente, in un rapporto di fiducia ma anche di partecipazione attiva. Certo, non si può pretendere che ogni medico si faccia carico dei problemi di tutti i pazienti che vede, però dimostrare l'interesse, la disponibilità e anche la voglia di parlare e di risolvere alcuni dei problemi psicologici rappresenta un elemento ulteriore per rendere positivo un trattamento. Grazie professor Santoro per essere stato con noi. Insomma, anche il destino, no? È nelle nostre mani. Tanto che voglio ricordarvi, a me è piaciuta molto, vogliamo segnalarla, che sul sito worldcancerday.org è possibile raccontare, condividere, far parlare le nostre mani scrivendo sulle mani dei semplici messaggi e postandoli sui social network. Insomma, l'enorme folle di mani sarà la migliore indicazione di cosa possiamo fare da soli e che di cosa possiamo fare insieme, per sottolineare, far comprendere che il destino della nostra società è un po' nelle nostre mani. Professore, volevamo leggerle un'altra mail di Daniela. Sì, vero? I genitori di mio marito, ci racconta, sono stati entrambi malati di tumore, la madre al colon, il padre morto per un tumore al pancreas, e anche i quattro fratelli del papà di suo marito sono morti di tumore, quindi, come dire, ricorre il tema della preoccupazione per la familiarità. Mio marito ha 43 anni, che tipo di esami e se deve farli a scopo preventivo? Daniela da Verona. Direi di no, perché anche sul problema del pancreas la diagnosi precoce non esiste, però aggiungerei un elemento: capisco che c'è anche uno stato di ansia di base che è umanamente assolutamente condivisibile, quindi magari se al di là del reale vantaggio comunque un'ecografia banale addominale negativa può aiutare ad affrontare il problema con più serenità, direi che forse un esame del genere, magari con cadenza annuale, lo farei. Ma qui sto parlando più da uomo che non da medico. Bene, ma ci piace lo stesso lei, professor Santoro. Le stiamo rubando, possiamo rubare ancora. Possiamo qualche, ancora andare avanti, sì, fra un po' minuto. Siamo... Ci sono degli ascoltatori, io riassumo, che ci chiedono di segnalare delle situazioni, delle precancerosi. Ce ne sono diversi, di diversi tipi. Ad esempio, un ascoltatore, l'ultimo messaggio che è arrivato, se l'esofago di Barrett potrebbe essere indicativo di uno sviluppo futuro di un tumore. Quali sono, insomma, le condizioni che noi dobbiamo, no, tenere, conoscere, no, per sapere riconoscere su di noi? L'esofago di Barrett assolutamente sì, è una lesione precancerosa con alto rischio di svilupparsi, però oggi possiamo intervenire con una prevenzione tipo endoscopico, quindi con un intervento scarsamente aggressivo, e possiamo risolvere il problema, e quindi va sicuramente gestita e trattata, perché pur non essendo un tumore può evolvere in tal senso e possiamo evitarlo, e poi si faranno dei controlli regolari. Ci sono altre a livello ginecologico, e per questo il pap test ad esempio sulla cervice molte volte evidenzia le lesioni pretumorali che asportate, trattate in maniera varia, spesso non aggressiva, evitano che si possa avere un'evoluzione in tal senso. Abbiamo i polipi del colon, l'endoscopia, la colonoscopia è da un certo punto di vista un esame diagnostico per una diagnosi precoce, ma anche un esame che provoca una prevenzione del tumore del colon, perché togliendo dei polipi dell'intestino evita che si genera. Quindi direi che queste sono in questo momento quelle che mi vengono più in mente come possibili lesioni da trattare, da gestire come lesioni non tumorali, ma evitare che evolvano in tal senso. Professor Santoro, adesso la salutiamo davvero, la ringraziamo di cuore per essere stato con noi. Tantissimi messaggi sono arrivati anche da persone che l'hanno conosciuta come medico e che ci stanno raccontando, no? Ci stanno testimoniando, come l'SMS che abbiamo letto, che stanno conducendo una vita, no? Di qualità. E quindi, professore, grazie per il suo impegno. Abbiamo festeggiato con un giorno di anticipo questa giornata così importante, che segna anche i successi e gli avanzamenti della ricerca. Speriamo che la ricerca continui con un passo spedito. Grazie professore, grazie, buona giornata. Buongiorno. Una musica che molti ricorderanno molto bene, non perché magari la ascoltano nelle sale dove si balla il tango, perché sono appassionati di questo ballo meraviglioso, ma perché ci richiama ad una bancarotta sovrana clamorosa, ma non inedita, perché non fu la prima e ha rischiato peraltro di non essere l'ultima per questo paese. Quella che si consumò in Argentina nel 2001, molto lontana da noi eppure tanto vicina, visto che travolse 450.000 risparmiatori italiani detentori di obbligazioni argentine per un valore di 14 miliardi di dollari. Complessivamente la bancarotta valeva 81 miliardi di dollari. Una storia della quale, lo sapete bene, vi abbiamo stressato all'inverosimile, abbiamo parlato decine di volte, che abbiamo seguito nel tempo perché suscitò molto clamore, molta risonanza. Cosa è successo in questi anni? Noi per ragioni di tempo siamo costretti a fare una sintesi estrema, ma possiamo ricordare che i risparmiatori rimasti coinvolti in quella situazione, e forse proprio in quel periodo abbiamo cominciato a prendere confidenza con il concetto di risparmio tradito. Insieme all'Argentina toccò anche ai risparmiatori rimasti coinvolti nel crack della Parmalat, in quello di Cirio, uno dietro l'altro, 2001, 2002, 2003. In questi 14 anni questi risparmiatori hanno fatto di tutto per mantenere viva l'attenzione su quella vicenda e hanno intrapreso ogni strada possibile per rientrare del capitale perso. Molte azioni legali contro le banche con le quali queste obbligazioni erano state sottoscritte. Poi abbiamo anche seguito le vicende dell'arbitrato internazionale portato avanti dalla Task Force Argentina, costituita all'indomani della dichiarazione di insolvenza da parte del governo di Buenos Aires. Due ristrutturazioni del debito argentino, appunto, la restituzione parziale di parte del capitale avvenuta negli anni grazie a queste ristrutturazioni che molti italiani hanno accettato, accettando anche contestualmente forti decurtazioni del capitale iniziale investito fino al 70%. Ieri le questioni che potremmo raccontare di questi anni sono tante. Ci sono delle iniziative di fondi di investimento definiti avvoltoi negli Stati Uniti, le iniziative del giudice di New York Thomas Griese e tanto altro, ma arriviamo alla notizia di ieri: la chiusura del contenzioso fra Argentina e 50.000 risparmiatori italiani detentori di titoli per 900 milioni di dollari che non hanno accettato le due ristrutturazioni del debito del 2005 e del 2010. C'è stato un accordo bilaterale preliminare fra l'esecutivo appunto argentino e la TFA, la Task Force delle Banche Italiane. Con questo accordo il governo di Buenos Aires ha accettato di pagare in contanti il 150% del capitale investito da questi risparmiatori per un controvalore di 1 miliardo e 350 milioni di dollari. Un accordo che è soggetto all'approvazione da parte del Parlamento argentino, un'approvazione che dovrebbe arrivare a marzo. Ma tutto questo cosa significa? Come si riapre questa partita? Chi verrà, per la precisione, risarcito? Come? Quando? In che tempi? Stamattina torna a spiegarci tutto Nicola Stock, presidente della Task Force argentina, che rimane silente per lunghi periodi di tempo per poi finire improvvisamente di nuovo alla ribalta della cronaca. Presidente Stock, buongiorno e ben ritrovato, eccoci a noi. Buongiorno, come va a tutti, anche gli ascoltatori? Lei ha condotto in questi anni una battaglia durissima, e lo dobbiamo dire, in molti neanche ci credevano che questo risultato lo potesse ottenere, perché lei lo sa bene che è stato anche molto ostacolato in certi momenti, Presidente. Infatti. Quello che noi abbiamo voluto fare, se c'era dei momenti di silenzio, abbiamo sempre voluto dare delle comunicazioni che si basassero sulla realtà delle cose, e quindi quando c'era un silenzio era perché attendevamo di dare buone notizie. E per fortuna adesso, con un weekend, le dico francamente, tra il sabato e la domenica fino a notte inoltrata, abbiamo voluto prendere questo punto, momento favorevole di trovare la possibilità di un accordo, e l'abbiamo fatto. Quindi quando l'ha firmato, Presidente, questo accordo? Domenica sera, forse era mezzanotte o qualcosa del genere, perché poi sono rientrato lunedì sera e ieri abbiamo fatto questo comunicato, che è un comunicato congiunto, perché la stessa cosa è lo stesso tenore anche degli argentini, perché l'abbiamo stilato insieme. L'ora doveva essere la stessa, 11 argentina, 3 ore nostra, perché non ci doveva essere sfasamenti. E quindi direi che è stato un weekend, i giorni subito dopo, molto, molto particolari, in cui naturalmente lei può immaginare chi non ha creduto e chi naturalmente, come lei giustamente ha osservato, non è stato sempre favorevole. Ma dalle reazioni che ho avuto anche ieri pomeriggio e stamattina, dovrei dire che i bondholders, almeno quelli che noi rappresentiamo, tranne una piccola minoranza che si aspettava qualcosa di più, ma lei ha sottolineato che quello che volevo è che chi rappresentavamo erano delle persone ormai anziane che avevano riposto i risparmi di una vita, e che con questo finalmente, spero almeno, prima delle vacanze potrebbero andare con i soldi che dovranno ottenere. Certo. Allora, Presidente, per raccontare bene nel dettaglio cosa succede da qui in avanti per queste persone, peraltro già in molti chiedono, io avevo diritto alla ristrutturazione del 2005, chi lo ha fatto invece, e sono stati molti di più in un secondo momento nel 2010, chiedono, visto che hanno accettato delle decurtazioni del capitale, chiedono se possono salire adesso su questo carro. Credo che non sia possibile, poi lo spiegheremo appunto bene. Quindi chi sono esattamente 50.000 che hanno... Aspetti, Presidente, no, devo andare in pausa. Abbiamo i mercati, ma li faccio molto velocemente, così le do spazio in tempi rapidissimi. A tra poco. Cuore e denari. Nicola Stock è questa mattina con noi, presidente della Task Force ad Argentina, ad annunciarci, come per la verità fanno molti giornali questa mattina, ma plaudo particolarmente, scusatemi se gioco in casa, la pagina del Sole 24 Ore di Finanza e Mercati curata da Roberto Darin e Maramonti, con i passaggi chiave della vicenda dei Tango Bond, la bancarotta del 2001 e poi tutte le vicende che hanno interessato i 450.000 risparmiatori italiani che avevano in mano bond argentini, Tango Bond per 14 miliardi di dollari, tante le strade seguite da queste persone in questi anni per tentare di recuperare quanto avevano perso. Abbiamo la buona notizia per 50.000 risparmiatori di questi che hanno continuato a credere nella battaglia della Task Force argentina ed ora otterranno il 150% del capitale inizialmente investito per un controvalore di 1.350 milioni di euro. Presidente Stock, c'è un ascoltatore che chiede, allora ci faccia capire con un esempio concreto, chi ha investito 10, facciamo 100, prima della bancarotta, oggi quanto riceverà? Perché questa mattina Roberto Darin sul Sole 24 Ore fa un esempio proprio parlando di un rendimento lordo medio annuo del 2,74%, si tiene conto dell'inflazione che c'è stata anche in questi anni e quindi diciamo l'accordo che ha siglato nel weekend con l'Argentina garantisce un rendimento netto annuo a queste 50.000 persone di quanto? Dunque, guardi, intanto una risposta bisogna darla con non tanto da guardare solo il rendimento netto, perché intanto bisogna vedere ai primi momenti del default argentino. È chiaro che chi aveva delle obbligazioni e ha accettato anche le nuove aveva dei rendimenti molto bassi, se ricordo bene il 2%, una cosa del genere. Cioè lei dice chi aveva aderito alle ristrutturazioni? L'1%, l'1%, quelli che hanno partecipato alle offerte del 2005-2010, sì. Quindi significa un rendimento molto basso, perché si partiva a scalare, se ricordo bene, un po' meno del 2%, quindi mi pare l'1%. Poi sì, sì, arriviamo anche a delle decurtazioni del capitale del 70%, poi esatto, chi aderì anche per esempio alla proposta che prevedeva di ottenere delle cedole parametrate all'andamento del PIL argentino, poi quelle cedole furono sospese anche con il rischio di nuova bancarotta di qualche anno fa, quindi veramente situazione complicatissima per noi. Allora io questo, se le permette, per dare la risposta... Il parametro può essere, uno può mettere quello che desidera, però la cosa essenziale è che chi ha investito il valore nominale di 100 riceve intanto subito l'intero valore nominale, dopodiché riceve dal momento del default fino ai giorni nostri adesso 50% in più per gli interessi, che poi possono venire 3, possono venire 4, a seconda di come uno desidera fare i calcoli, ma la certezza è questo: 100 investito, ricevo adesso 150. Perché, presidente, però, 150? Come l'avete, ma come l'avete ottenuta? È una sorta di indennizzo di risarcimento ulteriore dell'Argentina o in qualche maniera corrisponde alle cedole mancanti? Abbiamo fatto dei calcoli anche su quello che con l'ICSID avevamo richiesto, che era una richiesta, ma non diciamo il lodo finale in cui erano convinti che la cifra che noi indicavamo del 210% circa fosse poi accettata dai giudici, perché lì noi avevamo messo anche gli interessi, le penalità di ritardo e così via. Quindi noi abbiamo visto che se il lodo arbitrale, i giudici avessero dato una risposta, questa poteva benissimo anche essere tre quarti di quello che noi chiedevamo, la metà eccetera, quindi c'era un'alea per noi come anche per l'Argentina che noi fosse accettato quello che noi andavamo. Perché questa pronuncia, questo accordo che avete raggiunto con l'Argentina, dobbiamo forse specificarlo, presidente, non ha nulla a che fare con l'arbitrato internazionale che avete in corso con l'ICSID, questo tribunale presso la Banca Mondiale. Ecco, è un settlement extragiudiziale, quindi l'Argentina ha preferito in questo momento particolare, dove il presidente Macri ha dato l'intenzione di voler trovare un accordo per togliere questa macchia, questa pagina nera dall'Argentina, di trovare un accordo per poter poi rientrare nei mercati finanziari internazionali. Ora, questo accordo prevedeva naturalmente, come sempre sono queste cose, che noi chiedevamo una cosa, gli argentini ne davano un'altra, noi chiedevamo come una cosa assolutamente non invalicabile che fosse in contanti, perché noi non volevamo, come in tutti gli accordi che l'Argentina ha fatto e sta continuando a fare probabilmente nel futuro, che sono bonds, non sono obbligazioni, non è contante. Mm-hmm. Noi abbiamo proprio insistito per l'anzianità dei nostri rappresentanti, per la lunghezza dell'attesa di essere pagati in contanti. Se andiamo poi ancora alla sua domanda, ma quelli che hanno sottoscritto nel 2005-2010, esatto, che cosa succede? Ecco, lì devo purtroppo, e mi dispiace questo ovviamente, dare una risposta chiara. Chi ha sottoscritto e ha ritenuto di voler sottoscrivere queste offerte, oggi, come lei già anticipato, sono più di 2 anni che non ricevono più i dividendi. E questo si potrà ancora protrarre un po', penso, perché l'Argentina prima vorrà sistemare le pendenze. Poi quelle con gli hedge funds a New York, esatto, è ancora pesante, e poi eventualmente quest'altra cosa, perché questa significa che l'Argentina abbia la finanza necessaria proprio per proseguire questo pagamento, certo, di dividendi. Però ecco, direi, Presidente, che se vuole chiudere le vecchie pendenze non è detto che ne abbia l'intenzione di aprirne altre, magari per le sospensioni attuali di cedole che erano in corso di pagamento per chi ha aderito a queste 2 ristrutturazioni, non è detto che Macri magari tenti anche di risolvere questa vicenda, deve, come dire, se la sua coperta è troppo corta cerca... Esatto, ecco, esatto. Però io posso immaginare, ma questo è una mia immaginazione personale, che Macri in qualche modo poi vorrà in qualche modo trovare anche una soluzione per questi, certo, però bisogna anche sottolineare che chi è entrato in queste offerte aveva sottoscritto che non farà cause contro l'Argentina, quindi insomma ci sono degli aspetti che spero che Macri, non so se lo può, riconosca, dice lei. Avrò l'occasione di incontrarlo. Naturalmente anche questo, io anche se non sono delegato a nulla in questa situazione di questi altri, naturalmente ne farò voce, insomma. Certo. Allora, guardi, per completare questo discorso sulla sospensione del pagamento delle cedole negli ultimi 2 anni per quei risparmiatori che hanno aderito alla ristrutturazione 2005-2010, c'è Paolo da Firenze a cui credo però abbiamo risposto. Paolo, non so se ha sentito, buongiorno. Buongiorno, signora Debora, buongiorno, grazie di tutto. Sì, ho ascoltato per telefono, però le ultime notizie, ho spento il telefono e non l'ho recepito, insomma. Comunque credo di aver capito che diciamo il vecchio debito ristrutturato è in questo momento non rientra e le cedole sono sospese, quindi Sono sospese perché peraltro nel frattempo il governo argentino, questo stato, ha rischiato un altro ulteriore crack in questi anni e quindi insomma la situazione finanziaria si è fatta un po' delicata. La banca mi diceva appunto che erano sospese e l'Argentina non pagava e io io incredulo e ora invece tutto, insomma, ho capito che le cose stanno... Infatti, stanno così. Nessuno le ha detto delle bugie, Paolo, almeno in queste circostanze. La ringrazio. Sentirei invece Fioralbo da Pistoia, perché forse ha in portafoglio 2 titoli interessati a questa restituzione sulla quale c'è accordo raggiunto nel weekend. Fioralbo, benvenuto. Sì. Eccomi qua. Buongiorno a tutti. Tutti da Pistoia, tutti sì, toscani. Tutti toscani. Ecco. Fioralbo, sì, benvenuto. Tutti toscanacci. Così facciamo una lezione anche di dizione perfetta, perché i toscani hanno... Ci siamo, dica, Fioralbo. Siamo contenti da matti. Sì. Sia io che la moglie vi abbraccia tutti, specialmente il professore. Andiamo alla domanda, Fioralbo, che stock ce l'abbiamo oggi, poi chissà quando lo ripeschiamo un'altra volta. Ci dica. No. Io ho un titolo denominato I Marchi. 9709, 50.000 marchi, ecco appunto, ma quello mi ha già disposto grosso modo, poi quello voglio sapere che verranno riportate, almeno il capitale per l'intero. Ecco. Ma Fioralbo, lei, titoli denominati marchi? Sì, stock, Presidente, allora qua è una cosa dalla quale io non riesco a risalire adesso al volo. Vuole che risponda? Sì, certo, Presidente Stock. Dunque, i 50.000 marchi a suo tempo sono stati ovviamente poi ricalcolati in euro al cambio che era lì, quando le valute differenti europee sono state poi rapportate all'euro. Quindi i 50.000 marchi diventano ovviamente degli euro. Quindi un'obbligazione pagati. Argentina denominata in valuta tedesca, ex sì, valuta tedesca. Sotto giurisdizione tedesca. Ecco. E naturalmente verrà, se ancora il signor Fioraldo è ancora rappresentato da noi, ovviamente. Certo. Se ancora è tra i 50.000 che noi rappresentiamo, lui spero che prima di andare in vacanza riceva questo importo e magari mi fa un bicchierino alla mia salute pure. Perché Presidente, però dobbiamo dire che qua c'è il Parlamento argentino che deve metterci l'ultima parola. Sì, però questo le do subito una risposta. Il Parlamento, il Congresso argentino, per questioni anche di vacanze estive, perché lì è diverso ovviamente, sì, e inizia la sua sessione il 1 marzo. I funzionari, il sottosegretario con cui abbiamo firmato poi questo accordo, Luis Caputo, sì, questi già stanno preparando tutto l'incartamento da portare al congresso. Mi diceva che entro 2-3 settimane la cosa passa. Io voglio metterci anche un mese, perché le cose poi possono rallentarsi, l'opposizione eccetera. Però diciamo che tra la fine di marzo, questo inizi di aprile, perché c'è poi la Pasqua che è fine marzo, ma i primi di aprile dovrebbe passare. Poi e gli argentini su queste cose qua non scherzano, se c'è da andare in vacanza... Ma sa, sono 50%, sono anche di origine italiana. Ecco. Come sa. Presidente, allora... adesso devo andare in pausa, però io vorrei chiederle, sarà necessario per questi 50.000 ritornare da voi, ripresentare tutta la documentazione per dimostrare che ne hanno diritto a questo rimborso, o queste procedure di accredito di questo denaro avverrà in automatico perché voi avete già tutta la certificazione necessaria, tutta la profilatura, tutti i profili esatti di queste persone e conti correnti su cui accreditare questi importi? Punto, finita la pausa. Ottimo, va bene. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it vi presenta... Cuore e denari. La musica è bellissima, ma noi non possiamo perdere tempo ascoltandola. Allora, Presidente Stock, la pausa è stata sufficiente per ragionare su con le modalità con cui questa restituzione avverrà. Allora, dando per scontato che il Congresso argentino non ci faccia delle sorprese. Esatto. Ecco, allora, con che modalità i risparmiatori 50.000 che ne hanno diritto e che sono rappresentati dalla Task Force argentina dovranno di nuovo ripresentarsi, certificare la loro posizione, oppure avete già tutta la documentazione necessaria che li riguarda? Dunque, noi la documentazione necessaria l'abbiamo, però stiamo predisponendo già da adesso una lettera alle banche dove sono questi clienti rappresentati, e le banche avvicineranno subito questi clienti per avere l'accettazione di questo accordo, perché noi abbiamo rappresentato non le banche ma gli obbligazionisti, quindi gli obbligazionisti dovranno mettere una crocetta e la firma laddove noi diciamo lei c'ha tanto, lei riceverà 150% in contanti, perché questo verrà ben esplicitato, che non sia una cosa a venire chissà quando e come, e che loro poi con una crocetta e una firma dovranno dare il loro assenso. Questo lo stiamo predisponendo, quindi io ritengo che in una settimana tempo, così 10 giorni, ognuno verrà avvicinato dalle banche per dare il suo assenso o meno, insomma, questo speriamo. È. Ecco, se non vi avvicinano le banche, come dice il Presidente Stock, avvicinatevi voi e sollecitateli, esatto, ecco, esatto, che siete in questa posizione. Esatto. Presidente Stock, lei lo sa che siamo amici da tanto tempo, ci sentiamo ricorrentemente per queste trasmissioni, lei mi dice noi rappresentiamo gli obbligazionisti e non le banche, la task force è stata costituita dall'ABI, sappiamo bene che tutte le persone che hanno aderito alla iniziativa della task force hanno anche avuto il vincolo di dire se venite con noi non dovete fare causa alla banca per la modalità con cui c'è stata perché la sottoscrizione. C'era una sentenza della Corte Costituzionale che questi titoli che noi no, questo era per bloccato, essere precisi. che questi titoli che venivano bloccati per questo procedimento arbitrale non potevano essere svincolati a meno che di una revoca, e questo poi l'abbiamo spiegato nel contempo l'avvenire. Quindi no, io, come lei ha visto, io ho firmato, non c'è stato nessun comitato esecutivo dell'ABI, io ero completamente autonomo, ancorché devo dichiarare che l'ABI, quindi le banche, hanno dato le possibilità finanziarie per poter fare un procedimento arbitrale, eccetera. Quindi che è stato costoso, impegnativo e non finito, Presidente. Lì all'ICSID, che succede adesso? Dunque, che cosa adesso vuol dire questo accordo fatto con l'Argentina in quella sede di Washington? Adesso con l'ICSID noi sospendiamo il procedimento ICSID, sospendiamo fino al momento che incassiamo i soldi. Se questo non dovesse avvenire, ma non ritengo, perché è un importo che l'Argentina oggi come oggi perché pagare, lo ha ottenuto dalle banche, sì. E allora lei sa che ha ottenuto 5 miliardi ultimamente, e quindi anche lì la quasi certezza dell'importo. Però fino a quel momento noi teniamo in sospeso. Però se non dovesse verificarsi questo, noi andiamo avanti con l'ICSID. Quindi è sospeso, ma una sospensione non pregiudica poi l'eventuale prosecuzione? Assolutamente no. Allora, Anna da Macerata, buongiorno. Buongiorno, vediamo se io rientro in questo caso. Allora, io non ho aderito alle due ristrutturazioni, però devo dire che avevo delle obbligazioni non dello Stato, ma della Telecom, Telecom Argentina appunto, però sono stata sempre contattata in quel periodo, no, per aderire o meno. Vi ripeto, non ho aderito, ma nel frattempo le ho vendute, e a un prezzo naturalmente inferiore a quelle che l'avevo acquistata, addirittura sopra i 100, 104, perché la mia banca, non faccio il nome, ma avrete pure capito, data la regione, eccetera, eccetera. Io sarei anche nelle condizioni di rivalermi sulla banca, perché in tutti questi anni mi sono data da fare per capire se c'era stata un'irregolarità, e devo dire di sì, perché il mio profilo di rischio, avendo visto ce l'ho, è basso, scarsa esperienza finanziaria. Allora, attenzione, allora, però, anche Anna, alle prescrizioni. Sì, Anna, brava, brava. Intanto spero anche ascoltando magari le nostre trasmissioni. Sì, capisco molto bene. Adesso le banche, quando mi vedono, tremano. Non sono io che ho paura, sono loro, perché gli faccio tante di quelle domande. Io non ho preso le obbligazioni subordinate, ha capito? Sì. Perché capivo quello che significa, e devo dire grazie a voi, perché vi ho seguito sempre. Anna, però, lei da oggi è la nostra testimonial. Detto questo, torniamo su un caso vecchio. No, tu parlavi, Nicoletta. No, ecco, accenditi il microfono, magari. Ti devo dare. No, c'era il microfono. No, è Carmelo. Volevo vedere se era attento. Deve mettersi Donne di Denari sotto il braccio, Il Sole di 24 Ore dall'altra parte, e presentarsi così. E anche il libretto del metabolismo del dottor Speciani, che male non fa. Sentiamo allora, dottor Stock. Le ristrutturazioni riguardavano non solo le obbligazioni governative argentine, ma hanno riguardato anche obbligazioni di società argentine, no? Quindi corporate, le telecom che aveva Anna, che lei non ha ristrutturato, ma le ha vendute sul mercato. Ecco, però oggi alla signora Anna devo dire però qualcosa, che la Telecom Argentina era tra il banco ipotecario, la provincia di Buenos Aires e la città di Buenos Aires, che noi abbiamo ristrutturato. Ora la signora non ha deciso di ristrutturare, ma proprio per quell'accordo che noi abbiamo fatto con la Telecom Argentina, dopo circa, adesso la signora Anna mi dovrà scusare, ma non ero preparato a ricordarmi perfettamente la data, eccetera. Ma guardi, però dopo ci mancherebbe altro. Dopo circa un anno la Telecom Argentina è andato oltre il 100% di valore nominale, proprio per questa ristrutturazione e le pressioni che avevamo dato alla Telecom Argentina. E io sono andato anche a trovare la Telecom italiana per far sì che dessero il loro accordo a questa ristrutturazione. Certo. Detto questo, però, l'ascoltatrice ha venduto sul mercato, mi pare di capire. Sì. Quindi ormai più di quello che era il valore nominale, comunque. Non può certamente adesso pretendere di rientrare fra i 50.000 risparmiatori che hanno ottenuto il risultato. Mi scusi, non c'entra nulla. Non può può essere questo, perché questa è una ristrutturazione terminata. Questa è la Repubblica Argentina, invece è una ristrutturazione in corso, perché coloro che non hanno aderito, è una ristrutturazione che tramite ICSID che abbiamo voluto fare è ancora in corso. Certo. Si concluderà adesso con questo accordo che abbiamo fatto. Presidente, ma non sì, certo. Con quegli altri precedenti. Allora, c'era Giovanni da Firenze, io direi che gli abbiamo risposto, non lo farei intervenire perché chiede l'Argentina una moneta che non vale nulla, come fanno a pagare questi debiti. Adesso noi quello che interessa è come fanno a pagare questo 1.350 milioni di dollari agli italiani, e lo fanno con i prestiti bancari ottenuti di recente, 5 miliardi di cui ci diceva prima il presidente Stock. Presidente, in 2 minuti di tempo, le informazioni conclusive che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori e che sono tra questi 50.000 che otterranno questo indennizzo, rimborso, risarcimento, restituzione del capitale investito, che cosa dobbiamo far sapere loro? Cioè, prima di tutto, che sono tempi contante, sono tempi brevi, dovrebbero essere tempi brevi, perché io accennavo prima che spero che prima delle vacanze ottengano questi importi, naturalmente, perché ci vuole questi 3 mesi circa, perché a parte, come lei dicevamo, l'accordo del congresso argentino, poi ci sono diverse formalità da compiere, richiedere tramite le banche, andare io alla Consob, cercare di ottenere possibilmente da questi soldi che entrano, che non siano tassati dal governo italiano in modo eccessivo. Bravo, perché Giuliano ci chiede proprio questo, il tipo di tassazione a cui saranno assoggettati i bond, sarà quello del risparmio o amministrativo. È quello che noi ci preoccupiamo, come vede, non solo di firmare un accordo, ma di vedere anche che questo accordo non sia tassato eccessivamente poi dal fisco italiano. Benissimo, quindi questo è quanto in questo momento era necessario far sapere a queste persone. Tempi brevi, aspettiamo la pronuncia che dovrebbe essere scontata del congresso argentino, entro fine marzo avremo questa pronuncia e poi entro l'estate, così teniamoci un po' larghi, la restituzione di questo denaro. Voi fateci sapere appunto se arriverà, presidente Stock, se lei nel frattempo avrà altre novità da raccontarci, io la prego di contattarci e di farcele sapere con questi tempi. Sempre molto rapidi, esatto. Poi vedremo di chi altro sarà necessario parlare. Ma sarà conclusa questa vicenda, presidente Stock? E poi, in 30 secondi, quali altre battaglie lei ha in serbo di fare? Vedremo, che questa è stata una battaglia molto lunga e io sono nonno anche, quindi credo. 14 anni vissuti sull'ottovolanto, lei dice anche sì. Basta. Comunque diciamo che io non mi sento vecchio ancora. No, è bello agguerrito e ci piace. E poi soprattutto, però Deborah, le dovrei chiedere una cosa, mi ha fatto sentire tante volte questo disco in apertura e me lo mandi insomma. Altro che, lo mandiamo subito, presidente Stock, grazie e complimenti. Prego. Per sentirla anche così. Grazie. Sorridente e soddisfatto per questa battaglia. Abbiamo terminato. Andiamo. Torniamo domani, buona giornata a tutti.